Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, la crisi economica sta riaprendo un grande dibattito che sembrava sopito negli ultimi anni, quello sui modelli di gestione dell'economia, se serva cioè più Stato o più mercato per gestire l'economia. La crisi ha fatto vacillare molte certezze, non soltanto in Italia. La stessa crisi dei debiti sovrani, l'aumento della spesa pubblica aggrava e aggiorna sempre di più questo dibattito. E allora su questo tema vi segnalo un libro appena uscito di Luigi Zingales che si intitola, e quindi non lascia ombra di dubbio sulla tesi del libro, Manifesto capitalista, una rivoluzione liberale contro un'economia corrotta, è pubblicato da Rizzoli, 410 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Alessandro Pandolfi e Francesca Salsi. Luigi Zingales è un economista italiano molto noto, ancora piuttosto giovane, soprattutto per gli schemi del nostro paese, che nelle prime pagine del libro spiega come la sua stessa carriera, la sua stessa esperienza dimostri tutti i limiti del caso italiano. Appunto, giovane economista, molto brillante, si laurea in Italia, ma comincia a capire che trovare poi il modo di proseguire la sua carriera scientifica nel nostro paese è molto difficile. Allora va in America, appunto a Chicago, e lì diventa uno degli economisti più brillanti della sua generazione. Zingales è autore di libri di successo sul capitalismo, liberale convinto, e ha scritto questo libro per gli Stati Uniti, per questo è stato scritto in inglese, per additare i rischi che quel paese, il suo paese di adozione, corre se abbandonerà la fiducia nel sistema concorrenziale di mercato, avviandosi magari a diventare una sorta di grande Europa. E quindi scrive a nuora Zingales, perché suocera intenda, cioè l'Italia, e per esplicitare questo messaggio aggiunge in questo libro un capitolo finale dedicato proprio all'Italia. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Luigi Zingales. Buongiorno. Luigi Zingales, allora lei ha scritto questo manifesto capitalista parlando dell'America ma pensando all'Italia, in particolare tutta la parte americana è dedicata a denunciare quella che lei chiama la involuzione degli Stati Uniti, addirittura lei dice che negli Stati Uniti scricchiola la fede nel libero mercato. Insomma, cosa sta succedendo? Purtroppo il capitalismo americano sta diventando sempre più un capitalismo clientelare che assomiglia a quello italiano con tutti i difetti che ben conosciamo. Ecco, lei nel suo libro insiste su un tema che so che le è caro, che è quello del capitale civico, che era una dote molto diffusa soprattutto negli Stati Uniti e meno nel nostro paese. Ecco, anche questo si sta perdendo negli Stati Uniti, questa caratteristica? Certo, una delle cose che a me aveva colpito arrivando negli Stati Uniti 24 anni fa era la fiducia che gli individui avevano nello Stato. Una fiducia non cieca, una fiducia giustificata dal fatto che nel complesso lo Stato operava in maniera corretta, ma il primo pensiero di ogni cittadino americano quando lo Stato faceva qualcosa era che lo facesse nell'interesse dei cittadini. Oggi questo si sta rompendo perché durante la crisi la gente sospettava che Hank Paulson, il segretario del Tesoro, agisse nell'interesse di Goldman Sachs e non del paese, e oggi la gente è divisa pensando se Obama agisce nell'interesse dei sindacati o nell'interesse del mondo finanziario, però la maggioranza degli americani continua a ritenere che non agisca nell'interesse del paese. Questo per l'Italia è un fatto scontato, per gli Stati Uniti è un fatto, secondo me, traumatico. Ecco, però fermiamoci su questo tema, perché certo c'è sempre meno fiducia nello Stato, però paradossalmente cresce la fiducia nello statalismo. Ma secondo me non è vero che cresca la fiducia nello statalismo, è che c'è una profonda crisi ideologica, perché di fronte a una diffidenza nei confronti delle grosse imprese e del potere che queste hanno nei confronti dello Stato, non c'è una ideologia alternativa, per cui molti si rifuggono quasi per default nell'idea che l'intervento statale risolva il problema, però in realtà l'intervento statale molte volte è parte del problema, perché lo Stato agisce nell'interesse delle grandi imprese che lo controllano invece che nell'interesse dei cittadini. E questo intervento dello Stato poi prende l'aspetto più preoccupante per i cittadini stessi, che sono le tasse. Lei ha un capitolo dedicato a tasse buone e tasse cattive. Ecco, come dovrebbe essere un sistema di tassazione ideale, liberale? Beh, un sistema liberale dovrebbe essere un sistema che cerchi di minimizzare sia il peso complessivo delle imposte sui cittadini che anche ottimizzare il tipo di imposte che vengono messe, nel senso che un'imposta ad esempio sul reddito è un'imposta che tende a scoraggiare a lavorare e tende a favorire l'elusione se non l'evasione fiscale, mentre ci possono essere altri tipi di imposte che hanno un valore positivo al di là delle entrate che raccolgono, ad esempio un'imposta sul fumo, un'imposta sulla benzina hanno il vantaggio di ridurre quelle che noi economisti chiamiamo esternalità, il fumo o l'emissione di ossido di carbonio, al tempo stesso raccogliendo delle entrate, quindi queste sono le imposte buone verso le imposte cattive. Purtroppo in Italia abbiamo visto che anche le imposte buone fanno fatica ad essere approvate, c'era un'idea di tassare il contenuto di zucchero nelle bevande gasate, che secondo molti è causa di obesità infantile, e tassare il gioco d'azzardo, che mi sembra una cosa vada tassata, e proprio per le lobby, la pressione delle lobby, questa idea poi è stata accantonata. Sì, anche se molto liberali contestavano questa idea che lo Stato debba assumere un aspetto etico anche sulle scelte alimentari. Ma secondo me non è un aspetto etico, è un aspetto pratico, cioè nella misura in cui abbiamo un'assistenza sanitaria che si prende in carico le persone quando sono obese, quando hanno il diabete giovanile, quando hanno tutti questi costi, mi sembra doveroso cercare di raccogliere le risorse per finanziare questi costi penalizzando delle attività che tendono a creare questi problemi. E io non sono uno scienziato della medicina, ma da quello che mi dicono, una delle cause principali dell'obesità infantile è l'uso smodato delle bevande zuccherate e cose di questo genere. Ora, invece di regolamentarle in maniera complicata e arcana, secondo me tassarle è il modo più semplice e più trasparente. Il suo libro, che nasce per gli Stati Uniti, poi ha una postfazione italiana in cui esamina brevemente ma molto efficacemente la nostra situazione, e che è intitolato con una parola agghiacciante: l'Italia sarebbe l'esempio e il regime della peggiocrazia. E in particolare in questa peggiocrazia rifulge la moralità di cui il nostro paese dà prova, che si manifesta anche nel fatto che manchi una cultura della legalità. Ecco, stando agli Stati Uniti, quindi lei vede la situazione sempre più grave, per di capire. Ma sì, nel senso che secondo me c'è un vizio d'origine nello sviluppo del capitalismo italiano. Il capitalismo italiano è nato, diciamo, quasi come capitalismo carbonaro in un periodo in cui fare profitti era considerato un crimine e c'era un rischio serio di esproprio, se non addirittura di collettivizzazione forzata per una vittoria del Partito Comunista. Quindi in questo scenario si è creata una mentalità per cui l'imprenditore, diciamo, deve operare indipendentemente dalla legge, spesso contro la legge, perché la legge è ingiusta, la legge è assurda, cosa che è vero perché abbiamo tante leggi ingiuste e assurde, però questo porta poi le imprese a svilupparsi in maniera non normale, perché numero uno, in un sistema di questo tipo non si possono promuovere le persone competenti, si devono promuovere le persone di fiducia, perché se io violo la legge costantemente non posso permettermi di avere dei dipendenti che poi mi denuncino, e quindi devo assumere solo dipendenti di fiducia. La persona di fiducia è la persona con minore alternative, perché le persone con capacità hanno altri lavori e quindi sono meno legate al proprio datore di lavoro, e quindi inevitabilmente per mantenere questa situazione si tendono a favorire persone di secondo ordine e si blocca lo sviluppo dell'impresa, perché uno non può permettersi di avere un'impresa grande che non sia gestita con criteri di razionalità e trasparenza, e quindi secondo me il maggior ostacolo allo sviluppo delle grandi imprese in Italia è proprio questa mentalità di contrapposizione ideologica tra l'impresa e lo Stato, che non è solo colpa degli imprenditori. Lo Stato è stato e continua a essere uno Stato oppressore, che però non favorisce lo sviluppo della nostra impresa. Ecco, fra le cause del dissesto italiano c'è il debito pubblico anche nella sua analisi. Allora, lei come si colloca nel dibattito che adesso è in corso, non soltanto in Italia per la verità, sul rigore, le modalità per favorire lo sviluppo? Ma guardi, il debito pubblico italiano è il risultato di una cattiva gestione per decenni e un tentativo di comprare consenso di uno Stato inefficiente facendo promesse che saranno pagate in futuro. Oggi noi ci troviamo a dover affrontare questo problema nel peggiore dei mondi possibili, perché abbiamo una crisi internazionale, abbiamo una forte crisi demografica all'interno dell'Italia che prospettivamente fa vedere una discesa del PIL anche a parità di PIL pro capite, a meno di una immigrazione massiccia che poi potrebbe creare dei forti problemi. E in aggiunta a questo abbiamo una difficoltà all'interno dell'Europa dovuta a un cambio fisso che secondo me era sacrosanto per cercare di creare degli incentivi, ma avrebbe dovuto portare a un miglioramento dell'efficienza della macchina dello Stato, e questa efficienza non c'è stata. Quindi secondo me o noi facciamo una rivoluzione drastica nel modo in cui lo Stato opera, o noi a queste condizioni non riusciamo ad essere in Europa. La soluzione che tutti propongono della crescita attraverso spesa pubblica è una soluzione che, uno, non è fattibile, due, è controproducente. La spesa pubblica in Italia ha sempre generato clientele e corruzione, è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Grazie a Luigi Zingales, autore del Manifesto Capitalista. Buona domenica. Vi saluto tutti. Prima di passare la linea alle informazioni sul traffico, ricordo che il libro di Zingales verrà presentato a Milano il 27 settembre all'Università Bocconi alle 17.30. Traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Oggi si conclude a Bologna la nona edizione di Arte Libro, il Festival del Libro d'Arte. E fra gli appuntamenti di oggi pomeriggio vi segnalo la conversazione del direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano e poi un spettacolo delle letture di Anna Nogara, Traducimi o Musa di testo in figura. In questa occasione sono state organizzate diverse mostre che andranno avanti fino a ottobre, una fino al 2 dicembre dedicata ai corali benedettini di San Sisto di Piacenza, che è in corso al Museo Civico Medievale appunto di Bologna. E allora vi segnalo in campo artistico due libri inconsueti su alcuni riflessi o influenze da scoprire nella produzione artistica del nostro paese. Il primo è di Roy Doliner, che è uno scrittore e divulgatore d'arte, intitolato Il disegno segreto, il messaggio della Kabbalah nell'arte d'Italia, pubblicato da Rizzoli, 318 pagine, 22 euro, tradotto da Stefano Galli. L'autore è un grande cultore dei misteri che caratterizzano molte manifestazioni artistiche italiane, in particolare ha studiato a fondo la Cappella Sistina, e egli stesso ci dà questa ragione di questi misteri dell'arte italiana. L'Italia è così ricca di segreti, scrive, perché è stata a lungo oppressa da autocrati di ogni genere, imperatori mentalmente instabili, selvaggi capi barbari, saraceni, normanni, borboni, perfino papi decisi a governare col pugno di ferro. Così, aggiunge, simboli e allegorie sono diventati mezzi con cui organizzarsi, resistere, esprimere idee ostracizzate e, in poche parole, sopravvivere come uomini liberi. E il libro è un viaggio in questi misteri con una chiave di lettura, ossia il collegamento di molte opere d'arte con la mistica ebraica, appunto con la Kabbalah. Ecco un esempio, infatti, che riguarda uno dei dipinti più famosi al mondo, il Cenacolo di Leonardo. Sentite queste righe che vi propongo dal libro. Questo ordine zodiacale colloca Giuda nello Scorpione, una posizione che appare appropriata sul piano simbolico e spiega perché Pietro impugna un coltello tenendolo dietro a Giuda. Anche questo gesto non ha nessuna implicazione inquietante. Il suo scopo è fare in modo che Giuda, il traditore, sembri dotato di una specie di pungiglione e sottolineare il collegamento col suo segno zodiacale. La sequenza zodiacale pone Gesù tra il Capricorno e l'Acquario, cioè tra la fine di un anno solare e l'inizio dell'anno successivo. Nel Cenacolo, Gesù, che ha un forte legame simbolico col Sole, è implicitamente collocato al centro del cerchio zodiacale, ovvero al centro del cosmo, al contrario delle credenze di allora. Leonardo sottolineò quest'idea con altri stratagemmi, disponendo il dipinto verso una vera finestra del refettorio in modo che il volto di Gesù fosse illuminato dalla luce solare e creando un effetto di luce pittorico in corrispondenza al punto di fuga che è proprio dietro il suo capo e lo circonda di luce. Così, in modo assai prudente e discreto, Leonardo preparò il terreno a un sapere importante, ma allora proibito e rifiutato dalla Chiesa, che, almeno in senso astronomico, è il Sole e non la Terra a occupare una posizione centrale. Su Leonardo esce proprio in questi giorni un libro di Ross King intitolato L'enigma del cenacolo, l'avventura di un genio del Rinascimento e dell'affresco che lo rese immortale, pubblicato da Rizzoli, 526 pagine, 20 euro, tradotto da Carlo Capararo e Stefano Galli. L'autore è un canadese col gusto della divulgazione sul tema dell'arte e della cultura del Rinascimento, e questo libro non è un romanzo storico ma un saggio molto divulgativo e capace di illustrare non soltanto l'importanza di questo affresco, la sua storia, la sua genesi, il tormento che Leonardo ebbe nel dare vita a questo capolavoro, ma colloca la realizzazione del dipinto nella Milano di quell'epoca e quindi ci dà una ricostruzione dell'Italia e della Milano di fine 400 particolarmente viva. L'altro libro che ci offre una chiave di lettura insolita è quella di Luca Maccaferri, Sacralità e geometria, un itinerario sapienziale dalle origini al Rinascimento, pubblicato da Mauro Pagliai, 96 pagine, 9 euro. Qui invece il tema è quello della proporzione che caratterizza molti monumenti, e dunque il libro riguarda il rapporto tra i numeri e l'architettura. Con molti disegni, riproduzioni e poche parole scopriamo caratteri misteriosi e affascinanti di molti tra i più celebri monumenti, non soltanto italiani. Si parte infatti dalla Mesopotamia per arrivare poi ad alcuni celeberrimi edifici italiani, per esempio il Battistero di Firenze, che l'autore riconduce all'archetipo dell'edificio cosmico e segnatamente al Pantheon, di cui rappresenta la sapiente ed evoluta interpretazione in chiave poligonale. E poi, per esempio, interessanti le riflessioni sulla Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze del Brunelleschi, di cui viene messa appunto in luce la sapiente costruzione delle proporzioni che si rifanno alla tradizione della sezione aura illustrata da Fra Luca Pacioli. Rimaniamo in campo artistico con Elisabetta Rasì, autrice di Figure della Malinconia, pubblicato da Schirà, 92 pagine, 9 euro. La Malinconia qui diventa un altro filo di lettura di tanti capolavori, non solo italiani, da Goya a Turner, attraverso diverse tappe anche tematiche, per esempio una è dedicata ai gatti, un'altra al Risorgimento. E troviamo un grande pittore americano che diventa sempre più famoso e di moda in Italia, Edward Hopper. Rasì, a proposito di Hopper, illustra con queste parole l'influenza che l'Europa ha avuto su quel grande pittore. Dall'Europa, Hopper importa in America la malinconia. Quegli americani integri, tutti di un pezzo, i pionieri, i mercanti, i finanzieri, i soldati, capiranno che anche a loro manca qualcosa. Che in ognuno di noi c'è un fuori, e questo gli americani lo sanno bene, e quel fuori lo fanno funzionare a perfezione, ma c'è anche un dentro. E non sarebbe ancora niente se al fuori non mancasse il dentro e al dentro non mancasse il fuori. Così come lo manifesta un uomo, anzi meglio una donna, con tutto il suo strano carattere, il suo strano desiderio, che guarda dall'interno verso il fuori attraverso una finestra, o stando dentro è guardata da una finestra. Oppure una coppia, oppure nessuno, una stanza vuota, un interno solitario, basta che ci sia una finestra, una vetrata, insomma una separazione. Hopper la separazione la patì quando lasciò l'Europa. Tutto mi sembrava terribilmente rozzo e acerbo quando sono tornato. Mi ci sono voluti 10 anni per rimettermi dall'Europa. Con la sua pittura raccontò l'Europa perduta, quella perdita dell'Europa che l'America avrebbe sperimentato nel XX secolo. E agli appassionati di Edward Hopper segnalo che c'è in giro per l'Europa una grande mostra dedicata al pittore americano che adesso fa tappa a Parigi, infatti dal 10 ottobre al 28 gennaio del 2013 al Grand Palais sarà esposta una vasta scelta delle opere del grande pittore americano. Infine vi segnalo 2 libri per aspiranti collezionisti, il primo dedicato a chi ha la passione delle stampe, quello di Paolo Bellini che è un docente a Milano, Manuale del conoscitore di stampe pubblicato da Vallardi, 220 pagine, 30 euro. Chi di noi non ha in casa una stampa? E qui in questo libro troverete tutti gli elementi per accostarvi a questo ambito di collezionismo che abbraccia varie tecniche, qui tutte descritte, ampiamente illustrate con gli esempi più celebri nella storia dell'arte. L'altro libro invece riguarda l'arte contemporanea ed è di Adriana Polveroni e Marianna Gliottoni, si intitola Il piacere dell'arte, pratica e fenomenologia del collezionismo contemporaneo in Italia, pubblicato da Giovanni Levi, 264 pagine, 22 euro. un giornalista e una curatrice critica d'arte qui ci conducono nel mondo del collezionismo d'arte contemporanea, considerato nella sua storia in Italia a partire dagli anni 40, e poi abbiamo un capitolo sulla fenomenologia del collezionismo, ossia su cosa e perché si colleziona e sullo sviluppo che le collezioni possono avere. E infine una vera e propria guida troviamo in questo libro per entrare nel campo del collezionismo a ragion veduta, per chi voglia avventurarsi in questo ambito. A chi voglia muovere i primi passi, in particolare, le autrici così si raccomandano. Non si tratta solo di disponibilità economica, scrivono, quanto di dimostrare la propria credibilità e serietà al fine di accedere alle migliori opere degli artisti di punta e, se la relazione prospera, agli inviti più esclusivi da parte delle gallerie e dei grandi appuntamenti dell'arte contemporanea. E a questo punto... Il confettino. Un libro sul futuro di Giovanni Bignami e Cristina Bellon, intitolato appunto Il futuro spiegato ai ragazzi, è pubblicato da Mondadori, 214 pagine, 12 euro, fisica, biologia, genetica e medicina, tecnologia, robotica, tutto quello che contribuirà a cambiare il mondo viene messo alla portata dei protagonisti di questo cambiamento prossimo venturo, e cioè i ragazzi di oggi. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Oreggi, regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, appuntamento la settimana prossima.